e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. All'1:35 minuti di notte di sabato 4 agosto 2018 diamo il benvenuto ancora ad altri festeggiati nella nostra Risto Radio Convento. Un altro protagonista che si è fatto sicuramente riconoscere in questa serata, perché prima aveva delle variopinte orecchie in testa che l'hanno, come dicevo, segnalato in mezzo al locale, e parliamo anche un po' con lui, molto elegante, vedo anche con tiracche e papillon per una serata importante, come merita di essere ricordata e riconosciuta, lui si è messo in tiro, come è giusto che sia. Allora, benvenuto intanto. Grazie a voi. Come ti chiami? Domenico. Domenico da dov'è? Da Nogara. Nogara, che è in provincia di Verona, esatto. Diciamo, perché la nostra radio è potenzialmente internazionale, quindi potrebbero ascoltarci da chissà dove. Allora, ci vuoi raccontare un po' di questa serata? Che succede? Come mai sei qui, Domenico? Beh, perché sto festeggiando addio celibato, mi stanno facendo un regalo i miei amici e tutto sta andando bene. Bene, mi fa piacere. Con chi ti sposerai e quando? Con Irene l'8 settembre. Ok, e mi permetto, il tuo accento non mi sembra molto nogarese. No, esatto, io sono da 10 mesi a Verona, però sono toscano di origine. Ah, ok, Verona per lavoro? Verona per lavoro e per amore. Ah, perché lei è della zona. Esatto. Della zona. E, approfitto... Beh, facciamo così, prima per amore o prima per lavoro? Prima per amore, dopo per lavoro. Ok, quindi ti sei spostato e poi hai iniziato, esatto, a cercare qualcosa. Toscana dove? Di Prato. Prato, ah, ok, conosco la zona. Facciamo un piccolo excursus anche geografico, perché a mio parere la Toscana e il Veronese, la zona di Verona, sono sicuramente tra le cose più belle d'Italia da vedere, anche solo come paesaggi, come tutto. Dimmi un, tra virgolette, pregio, una cosa bella di ogni posto che ti ha magari colpito e che ti porti dietro. Beh, la sincerità e la tranquillità delle persone, e poi la semplicità, ecco. E lei ha ritrovato in entrambe, esatto, in entrambe le zone? Esatto. E dal punto di vista magari geografico, paesaggistico, diciamo così, cosa ti colpisce di queste due parti d'Italia? Beh, vabbè, cioè, la zona del Veronese c'è tanta natura rispetto alla Toscana, okay, rispetto a Prato, perché c'è, diciamo, troppo cemento. Ah, troppo cemento, quindi invitiamo tutti i sindaci toscani a rinverdire, esatto, anche se non si dice, la loro zona. Allora, chi ti sei portato negli studi che ti ha accompagnato questa sera? Allora, Matteo, Mattia e Nicolas. Nicolas, okay, è mio figlio acquisito. Ah, bello! Matteo e Mattia sono, diciamo, gli organizzatori di questo audio. Beh, anche perché chiamandosi in modo molto simile non potevano non andare in coppia. Bene, bene, bene. E beh, è giusto. Beh, sono amici, immagino? Sì, sì, amici. Ok. Di vecchia data. Quindi voi siete venuti su da Prato? No, loro sono proprio di questa zona. Ah, ok. Siamo acquisiti di zona. Acquisiti di zona, però non siete gli unici, da quanto ricordo, perché ce ne sono altri. Esatto. Se vuoi anche menzionare giustamente il resto del gruppo. Beh, allora voglio salutare Davide, che è l'autista del Pullman, che ha, insomma, organizzato tutto quanto insieme a Mattia e a Matteo. E all'altro Matteo Costantini. Beh, direi un'originalità nel gruppo per quanto riguarda i nomi, che è incredibile. E poi chi manca? Fabio e poi, insomma, siamo noi, ecco. E no, ti dimentico una cosa fondamentale della serata. Non so, io non posso aiutarvi. La figa. Viva la mona. La diga. Viva la figa, innanzitutto. Viva la figa, sempre. Ah, ok. Sempre, ovunque e comunque. Questo messaggio è importante. Vabbè, è un apprezzamento femminile, chiaramente inteso come donna. Siamo qui perché a noi tutti piace il senso femminile. Esatto. Già, poi in questa serata c'è massa figa. No, massa, non è mai massa. Non va bene. No, massa è inteso un gran numero, no, intendevo. Non è troppo, è giusto. Ah, non è troppo, non è mai troppo. Va sempre bene. Allora, ragazzi, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa? Vorrei salutare tutta la mia famiglia. Giusto. Mia mamma, mia moglie, miei figli. Però, è giusto ricordarlo. La sera salta tutto, diciamo, no? Sì, come quando stai perdendo 1-0 e saltano, esatto, gli schemi, tutti all'attacco. Io saluto la mia futura moglie, perché tanto stasera comunque è una serata a parte, però la saluto e la amo tanto. Bene, bene, bel messaggio. Voi ragazzi volete dire qualcosa? al di là, a parte quello che avete già detto. Viva la figa. Ebbene, perfetto. A parte, a parte, ma perché lui a parte. È che lui ha questa cosa nel cuore. È innamorato. Fatica innamorato, a tenerla, fatica a non esprimerla. No, comunque a parte quello, il convento è un buon posto dove si può dove si può festeggiare. Ci fa piacere. Prima volta che venite? Sì. Cioè, okay. per me sì. È stata una bellissima sorpresa e insomma sono felice di che hanno organizzato questa cosa. Esatto, speriamo di tornare per qualche altro. Per qualche altro. Beh, non certo. Per il nostro, ma allora, per c'è degli altri. Ragazzo lì. Sì, quel sì. Ragazzo lì, insomma. No, no, ma anche uno qui. Siamo dentro, lì. Anche uno qui dentro. Siamo lì lì, siamo lì lì. Ok, siamo quasi pronti. Va bene, allora vi aspettiamo sicuramente nelle prossime occasioni. Intanto facciamo. Magari veniamo su. Anche potremmo, verremo tutti volentieri. Intanto facciamo grandi auguri, grandi in bocca al lupo a Domenico. Grazie. Per tutto quello che succederà in futuro. Bravo, e grazie Domenico. A voi per avercelo portato qui. Grazie mille ragazzi, buona serata. Ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao.